fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo in diretta, siamo nuovamente in diretta per essere precisi, e siamo in diretta con un futuro sposo, anche un futuro bagnino, chi lo sa, perché si sono presentate qui questa sera con le divise da salvataggio, da lifeguard, come si dice, ricordando un po' Baywatch, giusto? Esatto. Ho fatto solo il corso di dorso fino adesso, perciò non sul dorso, diciamo sei forte. Bambino, no. Ah, ok. E quando passerai gli altri stili? Sei in programma di provarli? Prossimamente, spero presto, però non sono un fenomeno, diciamo. No, ancora il dorso ci devi lavorare. Ma sarà il mare, quindi... Quante zuccate hai preso col bordo vasca? Tante? Tante, perché non vedi quando arrivi. Quello prima, perché allungando il braccio, no, devi toccare, ma se non riesci a toccare giusto ti inzucchi. Esattamente. Ma quanto sei forte poi sul cambio vasca? Perché sai che loro sul dorso si capriolettano tutti e poi ritornano, cioè ti viene quello? No, poco, perché a Villafranca c'è una piscina di 50 metri e non è quella olimpionica. Ma in realtà dovresti ben sapere perché ci siamo messi la maglia da bagnino. Perché raccontiamolo. Il bagnino di solito bucca, no? Sì. La di stasera. In teoria, certo. È l'ultima notte. È un po' l'immaginario degli anni 90. Però la fame, quindi devo dire che ho la mia ragazza da 14 anni, perciò è 14 anni che sono fedele. È un po' piccolina. Nonostante gli ignoranti che vedete in video qui davanti. Sì, che hanno tentato di... anni, però non è piccolina, cioè è maggiorenne, non ha 14 anni. Sì, beh, bravo, non giusto specificare, visto come stanno andando le cose nel mondo, bravo. È ingegnere, non ha... Si vede. Infatti ha detto da 14 anni, quindi è stato specifico. Tra l'altro non abbiamo ancora, sappiamo che vieni da Villafranca, non abbiamo ancora saputo il tuo nome. Luca. E il anche... nome, prego. Luca Canigaro. Luca l'ha detto. Importante. Perché così chi non... Perché chi Luca sa, ce ne sono tanti. Esatto. Beh, dice anche allora con chi ti sposi, chi è lei? Mi sposo con Federica, che attualmente è a Valencia, sta facendo l'addio al nubilato. Aia, so che c'è la corrida a Valencia. Bravo, in contemporanea quindi. In contemporanea. Vai, bello, Valencia, poi è una città da scoprire, dicono tutti. Quindi... Dicono, speriamo non troppo, ma... Beh, cioè, bella, è giusto che la scoprano, no? Scopriranno gli altri. Che la visiti, no. Importante sono i valenziani. Esatto. Che non sono belli i valenziani. No, ma saranno i valenziani a scoprire Federica, no? L'importante è che i tori stiano da parte. Sì, ma quello vedrai, saranno tante piatte di paella e basta. Esatto, devi andare. Sono sicuro. Niente tori. Allora, telequiz. Quindi, c'è un telequiz. Ah, sì, certo. Mamma, no, stavamo salutando un nostro amico. Serie Mamma Mia. Sì, un nostro amico importante, Mamma Mia, che ci è tornato a trovare dopo tanto tempo. Gioca a calcio. Sì, esatto. Sì, esatto, i palloni. A casa era una gran signorina e non ero un... A proposito, Luca, dici un po', perché qui abbiamo sentito altre voci, ma non abbiamo capito chi è qui con te. Ci vuoi raccontare un po'? Ovviamente c'è Isacco Melotto da Bagnolo di Verona e l'ingegnere Alberto De Checchi, ingegnere... Detto Pamela Anderson, esatto. C'ha una parrucca bionda. Una parrucca bionda, ma su gente seria. Lavoro. Notevole. Lunedì si metteranno giacca e cravatta e saranno a lavoro puntuali. Alle 9 in ufficio. 9 e 5 possibilmente. Esatto, perché lui arriva alle 9 ma caga quei 10 minuti, perciò lo ruba l'orario di lavoro. Per far capire chi comanda. Esatto. Hai detto, fratello. Io capisco che tu lo vedi con la parrucca, però lui è coordina un team di ingegneri, è una persona importante. Sì, no, immagino. Il discorso di territorialità, no? Cioè, infatti, perché lo dicevo, perché capire chi comanda subito, mettere bene in chiaro. Non si sa mai chi passa di notte, lui la mattina arriva, rimarca il territorio così tutta la giornata. Si dice, ma qua è casa mia, qua è casa mia. Esatto. A casa mia, ma... Chi a casa di solito comanda sempre la moglie, la donna. Però sono fidanzata. Single, quindi allora. Beh, comanda la televisione, allora decide lei dove girare i canali. A proposito, vuoi dire qualcosa a Federica, Luca? Al di là di stare attentori. Ah no, scusa, dovevo dirlo Luca. No, sa già che le voglio bene, sa già i miei sentimenti per lei, bene, perciò non in diretta davanti a tutti non devo dire niente. Boh, bravo, ci sta, potevi mandare un messaggio, è giusto anche mantenere una certa intimità e mantenere la lacrimuccia, volevo dire. Un po' sì. Che si sta asciugando tra l'altro con la parrucca bionda, perché non avendo altri. Io invece sto coronando un sogno, te l'ho detto prima della diretta, far la radio è sempre stato il mio sogno. E diamogli lo spazio, vai. Oh, manda un messaggio a Luca, dai, mandagli un messaggio. A Luca, faccio i miei migliori auguri per una vita serena a lui e Federica. E... No, Luca, non con Serena nel senso di gioiosa. Sì, è Federica. Ah, ok, perché semmai che anche qui non confondiamo. con Federica virgola serena e felice. No, perché io sarei no felice, no serena. Anche felice, anche felice. È bigamo, biga, anche felice. Allora specifichiamo un secondo, io Alberto che sono single, se c'è sia serena che felice. No, qui ha detto felice, io ho sentito con la E finale. È un 2-4-2. La felice è un maschio e felice passo. Niente, passo, bravo, bravo. Bravo. Ok, no, no, è solo Federica. Solo Federica, solo Federica. Ovviamente si scherza. Tu, ingegnere Pomela, vuoi dire qualcosa a Luca? Numero uno, la signorina che passa, fantastica. Sì, sì, sì. Salutiamo per il pubblico a casa le ragazze. Ciao, cambiano. Tanti auguri anche a te. C'è una ragazza con una bananona gigante. Banana, chi ha capito tutto? Frutto, ovviamente. Frutto, frutto. E volevo dire che Luca è un... Ho passato 3 notti insieme a lui a... Ah, però! Qui si scoprono gli altarini. È felice anche. È felice. Eravamo felici ad Amburgo e devo dire che te fai schifo, nel senso. No dai, togli la parola. Siamo era un messaggio di complimenti, insomma, cioè, l'affetto. Sì, ci hanno uscito con fai schifo. Ah, ok, perdona. Schifo no. In senso lato. Un po' schifo. No, siamo ex compagni di classe, diciamo abbiamo un po' di trascorsi, però niente di... Niente che si può dire. Adesso sta mettendo le mani avanti per difendersi, certo, e giustificarsi, che non vuole dire che lui fa schifo. È sempre politicamente corretto. Certo, certo. Infatti anche stasera è sempre stato dice il suo dovere. In realtà un saluto a Zoccatelli, Certo, certo, assolutamente. Tra l'altro vorrei dire che Luca è... Io con questo è impazzito, certo. Sì, sì, sì. No, dicevo, Luca è... Senta, non lo continuano a parlare. Delle bellissime ragazze che ci sono qui. No, dicevo tra l'altro che a proposito di Luca, del politicamente corretto, è così politicamente corretto che ha l'abito che ricorda insomma la bagnina donna, ma per non, come dire, offendere il gentil sesso femminile ha messo il seno dietro. Esatto. Perché ha detto io non potrei mai paragonarmi alla donna non essendo donna. Quindi per rispetto me le metto dietro, giusto? Sì, è un vestito che è stato procurato dai miei compagni dell'addio al celibato, naturalmente non condividendo la scelta ho cercato di, come dire, indossarlo in modo diverso, rispettoso, da rispettoso. Rispettoso, esatto, grazie. E possiamo farlo entrare, signorine? Sì, signore, attenzione! No. La sorpresa! Grande sorpresa, grande sorpresa! Sono un attimo svenuto. Sì, no, c'è il materiale, c'è il materiale. Hai visto che roba? C'è il materiale. Oh, ragazzi. Vi lasciamo andare a caccia? Sì. No, ma di là di caccia, ma ti è mai capitato una roba del genere stasera? Più o meno tutte le settimane. Davvero? Però. Ma che cazzo di lavoro? L'ultima notizia. Facciamo cambio, ti prego. Però alla fine, diciamo che... Però, nel senso, noi siamo fondamentalmente come il Barcellona. Tanto possesso palla, tanto bel gioco, ma pochi gol. Capito? Pochi, se dopo è fuori classe come me, si te ne facci che sei. Vabbè, però qui... Se sei fuori classe, quello sei tu. No, ma non è quello il discorso. Vabbè, insomma, faremo nel privato, privato. L'ultima notizia. Volevo chiedere... Però è solo per informarti che qui... Siamo in fascia protetta. Più o meno. Questa è la domanda più che... Più o meno. No, dicevo... L'ultimo aspetto, volevo dire che Isacco Melotto è sposato da già un anno e mezzo. Certo. E quindi salutiamo la Giulia a casa, anche esatto, se mio, Isacco sta guardando le donzelle in vetro. No, stava guardando il vetro in realtà. Stava guardando... Se era pulito, si chiedeva se era pulito. La diffrazione del vetro, che sì, sembra distratto. Che uno guarda da una parte, ma in realtà guarda dall'altra. Esatto. Va bene, però allora. No, il registro della tipa era vero, eh. Io lo dico. Beh, lui lo può dire perché Pamela Anderson. Ti ringraziamo, grazie mille. Hai coronato il nostro sogno. Esatto, grazie a voi. Per averti fatto veramente una figura. No, che figura, siamo divertiti. Come si dice in politica? Barbina. O del cazzo, adesso, esattamente. Ah, ok, vabbè, io avevo tenuto in modo elegante. Scusami un attimo, l'ultima cosa che volevo dire è che adesso usciamo, li castighiamo, perché veramente non si può fare così. Non si può, sono d'accordo. Allora, auguriamo una buona fine serata al nostro Luca e anche ai suoi amici, ovviamente. Grazie mille. E anche una buona festa per quello che verrà tra pochissimo tempo. Grazie ragazzi, sì. Ciao! Grazie, ciao.